Conto alla rovescia. Tutto procede bene nelle prime fasi dopo il lancio della Sentinella europea sul ciclo dell'acqua e degli oceani. Il satellite SMOS, dopo il lancio del 2 novembre, ha ora completato il dispiegamento dei bracci a forma di Y sui quali sono installate le 69 antenne. Misureranno l'umidità del suolo e la salinità degli oceani. Ancora ben ritrovati da Gigi Donelli, torniamo a parlare dunque di notizie legate allo spazio e all'esplorazione. Abbiamo iniziato con SMOS che è il secondo esploratore lanciato quest'anno dall'ESA. Noi abbiamo parlato di questo tema con Volker Libi, che è il direttore dei progetti di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Europa è il leader nell'osservazione della Terra e anche nelle questioni dell'ambiente. I scientifici, ma anche la politica, hanno bisogno di risposte alle sue domande e c'è ancora tanti parametri che non sono conosciuti. Due di quelli sono, per esempio, l'umidità della terra e la salinità del mare. Questo è solo, dicevamo, il secondo di una serie di passi, di un progetto molto complesso. Sì, abbiamo un programma in momento di 8 missioni fino al 2016. I scientifici hanno sempre idee, molto più che abbiamo soldi. È possibile che questi strumenti pongano le basi scientifiche perché, diciamo, dal 2010 in poi si passa a parlare di dati e non di sensazioni? Sì, prima della riunione di Kyoto, il rapporto dell'IPCC, l'International Panel for Climate Change, era la base. Adesso proviamo di fornire dati che erano definiti come essential climate variables e le due che prendiamo di SMOS ma anche degli altri Earth Explorer sono in questo catalogo da avere questi dati per le prossime decisioni che sono molto importanti per la pianeta. È intanto finita la fase di calibrazione di Goce, la Sentinella, incaricata invece di tracciare la prima mappa tridimensionale ad alta definizione del campo gravitazionale terrestre. Il satellite, che ricordiamo è stato costruito in Italia da Thales Alenia Space, quindi per lo più a Torino, è stato lanciato lo scorso 17 marzo. È lungo 5 metri, pesa una tonnellata. Lo hanno ribattezzato la Ferrari dello spazio per il suo colore rosso acceso. È costato 340 milioni. Di euro. Continua dunque il nostro viaggio nei luoghi dello spazio italiano. Oggi andiamo a Capua, in provincia di Caserta, al CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, un ente statale con circa 350 dipendenti. Con noi il direttore generale del CIRA, Leopoldo Verde. Quali sono allora le attività e gli sviluppi del centro? Gli sviluppi di ricerca su cui noi lavoriamo sono ovviamente traguardati verso applicazioni che si proiettano nel medio-lungo periodo e riguardano essenzialmente delle grandi sfide internazionali, cioè delle sfide che per la natura degli investimenti necessari non sono sostenibili da una singola nazione. E quindi noi le svolgiamo mettendo a fattor comune gli sforzi di più nazioni contemporaneamente. Parlo di temi e di sfide estremamente attuali, come la sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto aerospaziale. Il sistema di trasporto aerospaziale è già uno dei sistemi più sicuri, ma noi puntiamo per i prossimi 10 anni a diminuire di ben 5 volte il pericolo di incidenti aerei. Parliamo anche di compatibilità ambientale. Siamo impegnati in un programma che in 10 anni prevede a livello europeo la riduzione dei fattori di inquinamento sia acustico che chimico di oltre il 50%. Anche l'efficienza e la competitività di tutto il sistema di trasporto. Pensi che nei prossimi 10 anni è prevista una triplicazione dei volumi di traffico aereo e la sfida che si è lanciata è di mantenere inalterati comunque gli standard di puntualità dei voli nonostante dalla crescita vertiginosa. Un grande successo nonostante qualche ammaccatura, la NASA è soddisfatta del test di volo del razzo Ares 1. Problemi comunque con i paracadute che non hanno rallentato la corsa come avrebbero dovuto prima dell'impatto con l'Oceano Atlantico. In chiusura vi ricordo i lanci 10, 14 e 16 novembre rispettivamente per la Soyuz da Baikonur, per l'Atlas 5 con un nuovo satellite per telecomunicazioni e infine per lo shuttle Atlantis, missione STS-129 per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Vi ricordo solo radio24.it per sentire, risentire questa trasmissione, ma anche per sentire in versione integrale alcune delle nostre interviste. Un saluto a tutti, un ottimo fine settimana. 3, 2, 1. We have ignition.